pioggia d'estate mi sorprendi. Semplice, qualsiasi gesto regala sentimenti. Lucciola che illumini momenti un po' più bui. Musica, d'altronde sei la musa che mi dà l'ispirazione. Sei speciale, ogni tuo gesto così frizzante mi fa capire chi sei. Tu sei unica, magnifica, che non perderò. Che non perderò. Piccola, nei giorni in cui mi chiedi protezione, facile il modo in cui mi fai innamorare. Umile, non te ne importa niente di apparire. Musica, d'altronde sei la musa che mi dà l'ispirazione. Sei speciale, ogni tuo gesto così frizzante mi fa capire chi sei. Tu sei unica, magnifica, sei speciale. Ogni tuo gesto così frizzante mi fa capire chi sei. Tu sei unica, magnifica.